8 settembre 1974, 8 settembre 2017, Fabrizio Ceruso vive. Il prossimo 8 settembre sarà il 43esimo anniversario dell'assassinio di Fabrizio Ceruso, 19enne di Tivoli, ucciso nel 1974 a San Basilio dalla polizia, mentre difendeva alcune case occupate da più di un anno. Come 43 anni fa, ancora oggi molte persone decidono di alzare la testa e di riprendersi ciò che viene sottratto in nome della rendita, della speculazione e dei profitti. Venerdì 8 settembre, dalle 9, un fiore per Fabrizio alla lapide di Via Fiuminata a San Basilio. Dalle 11.30, un fiore per Fabrizio alla lapide di Piazza Santa Croce a Tivoli. Che ormai è cosciente della forza che ha e non ha più paura del padrone. Dalle 17, corteo cittadino sulla Tiburtina, partenza dalla stazione metro Re Bibbia. Che ormai hai capito che è ora di lottare, che non c'è tempo da aspettare. Sabato 9 settembre, a Largo Arquata del Tronto, San Basilio. Dalle 16, sport popolare in piazza. Dalle 18, assemblea pubblica sul diritto all'abitare. Dalle 21.30, concerto con gli Scasso, Fusion Ska e gli Hardcore, Folk Alternative Rock. '74-2017, Fabrizio Ceruso vive. San Basilio e Roma non dimenticano. Non si può fermare e unisce chi ha deciso di lottare.